and girls, your attention, please. Presenting a new exciting radio program. Tutti più buoni, tutti più carini. Oggi nel mondo comandano i bambini. Mamma, chiedo asilo. Bentornati a Chiedo Asilo, un saluto da Kappa. E un saluto guarda, da Drago. Guarda che sorriso che faccio, Drago. Veramente, eh? Rivettato. Cosa fai con tutta quella roba lì? È il mio kit d'emergenza. Emergenza che, proprio... Ma che emergenza? Oh, l'invasione degli zombie. Anzi... L'invasione degli zombie. Che zombie? Ma quali zombie? I morti viventi, non sai chi sono gli zombie? Sì, ma lo so cosa sono gli zombie, però non c'è mica l'invasione, Drago. No, lo so, io ho letto. Bisogna una... prepararsi. Sì, cos'è? C'è una direttiva dei Centers for Disease Control and Prevention di Atlanta, abbreviato in CDC. I CDC sono un'istituzione americana molto autorevole nel campo della medicina e sono praticamente quelli che danno i numeri, nel senso che sono loro a divulgare le informazioni utili a prevenire e curare infezioni ed epidemie. Studiano sì, proprio. Cosa c'entrano con i morti viventi? C'entrano perché questi CDC hanno pubblicato ultimamente una direttiva per sapere come comportarsi in presenza di un'invasione di zombie. Tu sei sicuro che sia una fonte autorevole? Questo CDC? CDC, sono... autorevolissimi. Se vuoi sopravvivere con gli zombie che ti assediano la casa, dicono questi del CDC. Come amichevolmente. Amichevolmente. Vabbè, basta avere, dice, io... un'acqua a sufficienza, solite robe, no? Cibi in scatola, coltellino, queste cose qui, nastro adesivo. Esatto, non so, il passaporto. Di capito, di riuscire a convivere. Ah, no, a convivere con no. A sopravvivere. Una camera. Sopravvivere. No, quello no. Ci guadagni anche un po'. Ma tipo lo spray repellente anti-zombie? No, vabbè, quello non esiste. Ti assalta, sì, esatto, nel kit non c'è, non l'hanno messo. L'aglio. No, vabbè, non si fa l'aglio. L'aglio per i vampiri, no, gli zombie, non hanno il naso, come fanno? Ma questo cos'è sto kit anti-zombie? No, è in effetti un kit di sopravvivenza non anti-zombie, secondo me è generico. Infatti CDC hanno raccontato la favoletta degli zombie per interessare il pubblico che arrivava sul loro sito internet. Però alla fine i consigli che danno sono quelli che vanno bene per qualsiasi emergenza, dal terremoto al colera. Sì, però se parlano di zombie, chi è che li può prendere sul serio? Scusa. E chi? Gli americani, no? Vabbè, adesso cos'è? La leggenda degli americani ingenui, creduloni. Infatti pensa che i centralini dei CDC poi sono stati subito intasati da chiamate di gente che voleva sapere quando era previsto lo sbarco degli zombie a Chattanooga, Tennessee o a Poughkeepsie, New York. Ma sono scemi. Uno come George Bush credeva nella creazione del mondo in 7 giorni, nella mela di Adamo ed Eva. Secondo te ha dei problemi a credere negli zombie? Beh, scusa, credere in Dio è una cosa, credere negli zombie... I'm George W. Bush and I approve this message. Dedichiamo questo annuncio alla donna che più di 2 anni fa abbiamo scelto come volto della nostra comunicazione. Ai suoi valori e alla sua autenticità, in cui ci siamo subito riconosciuti. Alla sua capacità di brillare di luce propria. Perché sappiamo che la luce che abbiamo visto in lei, prima che si accendessero i riflettori del jet set internazionale, non smetterà mai di farla risplendere anche nel suo futuro. Qualcuno potrebbe pensare che il titolo di questo annuncio sia un addio. Per noi è un arrivederci. Grazie, Elisabetta Canalis. Bye bye, Eli. E ora, bambini, il sonnellino. Adesso è il momento giusto, eh? Ma per cosa? Per entrare nel mondo di Pushy Gel. Ma non fai così, così. Ma l'abbiamo già fatta sta scena. Quale scena? Che c'è la sonnellina, tu mi dicevi che era il momento giusto per entrare nel mondo di Pushy Gel. Ma anche Dars, ma che ti importa cosa è già successo? Ma non far così che mi fai paura, eh? Mi viene in mente che esiste... l'eroina. Ma no, ma sì, è l'eroe, cioè il mondo di Pushige, vabbè, chiamalo come vuoi. Ti viene un'allegria artificiale, mi fa venire i brividi. Ma no, non devi essere ostile verso la soluzione a tutti i tuoi problemi. Piantala. A tutti i tuoi piccoli e grandi dolori. Vedi, poi cominci a grattarti, vedi? Volerlo a perdere tu. I denti. Basta che ti metti in un baleno, puoi entrare con me nel mondo di Pushige. Si entra in punta di piedi nel mondo più bello che c'è, anche se vedi non credi al mondo di Pushige. gamma dei colori è bellissima. Sì, rosa, l'azzurro, il pistacchio, sì, il verde acqua. È un po' i colori dei paninari degli anni Ottanta. Si entra in punta di piedi nel mondo più bello che c'è. Anche se vedi non credi al mondo di Pushige. Vieni asilo! Drago, sveglia! Sveglia! Ho sognato? È il momento del quiz questo, il quiz senza premio. Ah, beh, un classico di chiedo asilo. Il quiz senza premio. Adesso però sta zitto, riprenditi, dai. Okay. Allora. Ecco. Attenzione, ascoltate con attenzione, eh. C'è un rumore di fondo importante per il quiz. Vedi? Ci sono dei bambini che ridacchiano. Attenzione. This is frog rape. Vedi? Attenzione. Rape. Di cosa parla? Vedi? Ecco, ascoltate queste risatine tra l'imbarazzato e cosa stanno guardando i bambini. Possiamo suggerirvi che questi bambini stanno dicendo poor frog, cioè povera rana, eh? Allora, chi indovina che cosa stanno guardando, un famoso, possiamo dire che è un famoso filmato di YouTube, sì, questi bambini ridanciani, lo scriva a chiedo asilo, radio24.it. il premio. Allora, no, il premio non c'è. Premio no, dai, ma non c'è, però qualcosa deve essere. Beh, sì. Aspetta, sai che qua sotto c'è la concessionaria Aston Martin? Sì, però ho detto una Aston Martin in premio, una DBS 9, 400.000 cavalli. A chi risponde a questo quiz? Tuo papà ha il fuoristrada nero? E il mio ha un cammello d'argento. Tuo papà lavora al ministero? E il mio fa le pizze di vento. Tuo papà ha un orologio firmato? Il mio chiede l'ora agli gnomi. Tuo papà è un ingegnere avvocato? E il mio è un domatore di fiumi. Tuo papà ha 1000 azioni di borsa? E il mio ha una borsa da spesa. Tuo papà ha 2 auto da corsa e il mio corre a piedi in discesa. Insomma, ho capito, tuo padre è più ricco, più bello, vincente, più grande, potente, più forte, più duro, più fiero del mio. Forse è vero, però tu non conosci mio zio. L'asilo Italia registra una new entry. Oh. È questa specie di eroe mascherato che lotta contro gli sprechi della politica e si fa chiamare Spider Truman. Ha un blog dove ha raccontato la sua esperienza di portaborse per anni, un portaborse tra l'altro precario, e quindi si è vendicato di tutte le angherie che ha avuto sul lavoro, così rivelando un po' gli sprechi di quei politici che hanno lavorato con lui. Allora, questo blog ha avuto un grandissimo successo, 100.000 visualizzazioni in 24 ore. Il giorno dopo Spider Truman si è mostrato su YouTube con un video inquietante in cui appunto indossa una maschera veramente ridicola e in dice cui parla come qui. Il bambino Alberto, tipo, praticamente sembra. Sì, 19 luglio 2011, cioè sono in due, c'è cioè il bambino Alberto e l'uomo, e l'uomo cattivo sotto. È bastato raccontare i segreti della cassa per scatenare dubbi. È romano, è uno della Rai, secondo me. Molti si chiedono chi c'è. Però questa è una bufala, nel senso che poi si è scoperto che questo qui non è il vero Spider Truman. Spider Truman ha detto: no, io non farò mai una cosa su YouTube, io sono anonimo, rimango anonimo. Però chiediamoci un attimo le origini di questo supereroe, Spider Truman, da dove può, ad esempio, trarre il nome? Potrebbe essere Spider Truman, cioè il vero uomo ragno. Oppure è un miscuglio tra Spider-Man e il Truman Show, sì, perché uno che non capisce molto bene ha preso due cose a caso del mondo dello spettacolo. Potrebbe essere, sì. Oppure, non so. Forse l'ha preso da Truman Capote. Cosa c'entra la Capote adesso? La Capote. Poti, poti. Vengo a prenderti stasera con la mia Capote blu. Poti, poti. Vengo a prenderti stasera con la mia Capote blu. Poti, poti. Vengo a prenderti stasera con la mia Capote. Vieni a prendere stasera con la Capote blu. Chiedo asilo at radio24.it. Dite la verità. Avete capito che siamo noi, Spider Truman? So io, Spider Truman. Che poi se facciamo tu la voce dell'orco, io quella del bambino Alberto, e parliamo un po' con l'accento romano, è Spider Truman. Proviamo a dire una cosa tipo Mi piace a paiada, ma soprattutto il cacio e pepe. Era proprio Spider-Man Truman.